La formazione spirituale. 12. Questo aspetto deve occupare un posto privilegiato nella vita di ciascuno, chiamato a crescere senza sosta nell'intimità con Gesù Cristo, nella conformità alla volontà del Padre, nella dedizione ai fratelli, nella carità e nella giustizia. Il Papa Benedetto XVI ha ricordato che nella tradizione più antica della Chiesa, il cammino formativo del cristiano, pur senza trascurare l'intelligenza sistematica dei contenuti della fede, assumeva sempre un carattere esperienziale, in cui determinante era l'incontro vivo e persuasivo con Cristo annunciato da autentici testimoni. La vita di unione con Cristo, la ricerca della santità, si nutre di aiuti spirituali. Conoscenza della dottrina cattolica, vita liturgica e sacramentale, assistenza spirituale. Identificarsi con Cristo. 13. Grazie all'azione dello Spirito Santo, i modi di seguire Gesù Cristo nella Chiesa sono innumerevoli. Nostro Padre ne prendeva atto quando scriveva: «Dovete essere diversi come diversi sono i santi nel cielo, ognuno dei quali ha le sue proprie note personali e specialissime, e anche dovete assomigliare gli uni agli altri come i santi, che non sarebbero santi se ognuno di loro non si fosse identificato con Cristo». L'Opus Dei, oltre alle pratiche di pietà, tutte tradizionali nella Chiesa, che raccomanda ai suoi fedeli o a coloro che si avvicinano alle attività apostoliche, trasmette uno spirito per affrontare e dare un senso alla propria vita, fondandola sulla filiazione divina in Cristo. L'asse, il cardine, sul quale ruota tutto il lavoro di santificazione proprio e altrui, è il lavoro professionale, compiuto nel modo migliore possibile in unione con Cristo e con il desiderio di servire gli altri. Questo aiuto spirituale favorisce l'unità di vita, perché i fedeli della prelatura e i soci della società sacerdotale della Santa Croce imparano a prendere spunto dalle situazioni in cui si trovano, per trasformarle in occasione e mezzo di santità e di apostolato, operando sempre con la massima libertà personale nelle questioni professionali, familiari, sociali, politiche, eccetera, che la Chiesa lascia alla decisione personale dei cattolici. In questo senso, San José María spiegava che è impossibile stabilire una differenza tra lavoro e contemplazione. Non si può dire fino a che punto si prega e fino a che punto si lavora. Si continua sempre a pregare e a contemplare, stando alla presenza di Dio. Pur essendo apparentemente uomini di azione, riusciremo a giungere là dove giunsero i mistici più elevati. Volai sì alto che raggiunsi il mio desir, fino al cuore di Dio. È facile scoprire un eco di questi insegnamenti nelle parole di Papa Giovanni Paolo II rivolte a Castel Gandolfo a fedeli dell'Opus Dei. Vivere uniti a Dio nel mondo, in qualunque situazione, cercando di migliorare se stessi con l'aiuto della grazia e facendo conoscere Gesù Cristo con la testimonianza della vita. E che cosa c'è di più bello e di più entusiasmante di questo ideale? Voi, inseriti e amalgamati in questa umanità gioiosa e dolorosa, volete amarla, illuminarla, salvarla. I mezzi. 14. L'unione del lavoro con la lotta ascetica, la contemplazione e l'esercizio della missione apostolica richiede una profonda preparazione. Per questo l'Opus Dei ci offre un ampio ventaglio di risorse personali e collettive per la formazione. Fra quelle personali ce n'è una di particolare importanza, è il colloquio fraterno, che chiamiamo anche confidenza, proprio per il suo carattere interpersonale pieno di fiducia. Si tratta di un colloquio di direzione spirituale che si colloca nel contesto del servizio fraterno, per vivere sino in fondo, con libertà e responsabilità, l'incontro quotidiano con Cristo in mezzo al mondo. Già nelle pagine del Nuovo Testamento troviamo che il Signore volle servirsi della mediazione di uomini e donne per indirizzare le anime verso la meta della santità. Quando chiama San Paolo sulla via di Damasco, gli chiede di recarsi da un altro uomo, Anania, che gli comunicherà ciò che deve sapere intorno al nuovo cammino che sta per intraprendere. Poi andrà a Gerusalemme videre Petrum, per vedere Pietro e imparare da lui molti aspetti della dottrina e della vita cristiana. Di fatto, la direzione spirituale è una tradizione il cui spirito rimonta ai primi passi della Chiesa. Nell'Opus Dei questo aiuto spirituale tende a far sì che le persone assimilino più facilmente e più fedelmente lo spirito che il nostro fondatore ha ricevuto da Dio e ci ha trasmesso, e che è stato proposto dalla Chiesa come un cammino di santità. 15. San José María spiegava che nell'opera la direzione spirituale personale si realizza in actu, vale a dire nel momento in cui avviene il colloquio. Essa va intesa nell'ambito del consiglio utile ad aiutare a progredire nella vita cristiana. Certe volte nostro padre paragonava la direzione spirituale all'impegno di un fratello che si preoccupa dell'andamento dei fratelli più giovani o di un amico o di un'amica leali, mossi dal desiderio di invitare altri a essere cristiani migliori. In sostanza, la confidenza è un colloquio tra fratelli e non quello di un sottoposto con il suo superiore. Coloro che ascoltano le confidenze fraterne agiscono con straordinaria delicatezza, frutto dell'esclusiva preoccupazione per la vita interiore e l'azione apostolica dei loro fratelli, senza mai pretendere di interferire negli aspetti temporali di carattere professionale, sociale, culturale, politico che li riguardano. Nell'opera, la separazione tra l'esercizio della giurisdizione e la direzione spirituale è assicurata in pratica, fra l'altro, dal fatto che proprio coloro che ricevono colloqui di direzione spirituale, i direttori locali e alcuni altri fedeli particolarmente preparati, oltre ai sacerdoti quando amministrano il sacramento della penitenza, non hanno alcuna potestà di governo sulle persone che dirigono. Il regime locale, in ciò che concerne la capacità di governo, non si riferisce alle persone, ma soltanto all'organizzazione dei centri e delle attività apostoliche. La funzione dei direttori locali, in ciò che si riferisce ai loro fratelli, è di consiglio fraterno. In uno stesso soggetto non coincidono mai le funzioni di giurisdizione e di aiuto spirituale. Nella prelatura l'unica base dell'autorità di governo sulle persone è la giurisdizione, che risiede soltanto nel prelato e nei suoi vicari. Che cosa offre dunque l'Opus Dei? Soprattutto la direzione spirituale ai suoi fedeli e alle altre persone che la chiedono. Noi, fedeli della prelatura, proprio perché desideriamo la nostra santificazione personale e vogliamo realizzare la missione dell'Opus Dei nella Chiesa, non abbiamo nulla in contrario, di solito, a parlare con chi ci viene indicato dai direttori, anche se più giovane di noi, sempre con piena libertà e con fede nella grazia divina che si serve di strumenti umani. Il colloquio fraterno non è un resoconto di coscienza. Se nella direzione spirituale ci viene chiesto qualcosa, e qualche volta l'eventualità che ci facciano domande può essere un bene e persino una necessità, sarà fatto con molta delicatezza, perché nessuno è obbligato a dire nel colloquio ciò che è materia di confessione. Tutto ciò che vi sto dicendo, figlie e figli miei, vi sembrerà ovvio, ma ho voluto riprenderlo nel contesto attuale della società, che dimostra una particolare sensibilità al rispetto dell'intimità delle persone, anche se in certi ambienti abbondano la mancanza di pudore e di rispetto per la vita privata degli altri. A tutti noi è stato spiegato, subito dopo aver conosciuto l'opera, che non ci passava per la mente di chiamare il mio direttore spirituale chi ci ascolta, semplicemente perché, ripeto, nell'opera non esiste questo personalismo né mai c'è stato. Colui che riceve la confidenza trasmette lo spirito dell'Opus Dei senza aggiunte. Chi ha l'incarico di dare questo aiuto scompare per mettere le anime di fronte al Signore secondo le caratteristiche del nostro cammino. Un cammino, diceva nostro padre, riferendosi all'opera, che è molto ampio, si può andare a destra o a sinistra, a cavallo o in bicicletta, in ginocchio, a quattro zampe come quando eravate bambini e anche per la cunetta laterale, purché non si esca dal cammino. Il sacramento della riconciliazione. 16. Oltre al colloquio fraterno, solitamente ogni settimana andiamo da un sacerdote per ricevere l'aiuto spirituale legato alla confessione sacramentale. Come è ben comprensibile, ci aiutano i confessori designati per i diversi centri, che sono stati ordinati per servire in primo luogo le loro sorelle e i loro fratelli con una disponibilità assoluta. Essi, poiché conoscono e vivono lo stesso spirito, hanno una specifica preparazione per orientarci, mai per imporre. In modo analogo si comporta chi suole andare dal medico di famiglia quando c'è, invece di andare da uno sconosciuto. Nello stesso tempo, come ha chiarito sempre San José María, i fedeli della prelatura, come tutti i cattolici, godono di piena libertà per confessarsi o parlare con qualsiasi sacerdote dotato delle facoltà ministeriali. Vi sorprenderà che vi ricordi questa verità così chiara, però mi interessa menzionarla, perché forse potrebbe essere meno conosciuta da coloro che non sanno nulla dell'Opus Dei o dello spirito di libertà proprio dei seguaci di Cristo. Inoltre, nostro Padre ha stabilito che abitualmente siano persone diverse coloro che ci assistono nel colloquio fraterno e nella confessione. Lo spirito di iniziativa e la docilità. 17. La direzione spirituale richiede, nelle persone che la ricevono, il desiderio di progredire nella sequela di Cristo. Sono proprio loro, in primo luogo, interessate a cercare tale aiuto con la frequenza opportuna, aprendo il cuore con sincerità, in modo che si possano suggerire loro alcune mete, indicare eventuali deviazioni, incoraggiare nei momenti di difficoltà, dare consolazione e comprensione. Per questo si muovono con spirito di iniziativa e di responsabilità. Il consiglio di un altro cristiano, e in particolare nei problemi di morale o di fede, il consiglio del sacerdote, sono un valido aiuto per riconoscere quello che Dio ci chiede in una determinata circostanza. Ma il consiglio non elimina la responsabilità personale. Siamo noi singolarmente a dover decidere e dovremo rendere personalmente conto a Dio delle nostre decisioni. Quando ricorriamo alla direzione spirituale per assecondare l'azione dello Spirito Santo, crescere spiritualmente e identificarci con Cristo, dobbiamo coltivare le virtù della sincerità e della docilità, che riassumono l'atteggiamento dell'anima credente davanti al Paraclito. Così San José María descriveva questa raccomandazione rivolgendosi a tutti i fedeli, dell'opera o meno. Conoscete a menadito gli obblighi del vostro cammino di cristiani che vi condurranno senza sosta e con calma alla santità. Siete anche premuniti contro le difficoltà, contro tutte le difficoltà che si intuiscono fin dai primi passi della strada. Adesso insisto sull'esigenza di farvi aiutare, guidare da un direttore di coscienza al quale confidare tutte le vostre sante aspirazioni e i problemi quotidiani che riguardano la vostra vita interiore, le sconfitte che potete incontrare e le vittorie. Nella direzione spirituale siate sempre molto sinceri. Non permettetevi di tacere qualcosa. Aprite completamente la vostra anima senza paura e senza vergogna. Guardate che in caso contrario questo cammino tanto agevole e accessibile si aggroviglia e ciò che all'inizio non era niente finisce per diventare un nodo soffocante. Poi, facendo eco agli insegnamenti dei padri della Chiesa e degli autori spirituali, sostenuto dall'esperienza di molti anni di pratica pastorale, insisteva: se il demonio muto entra in un'anima, manda tutto in rovina. Invece, se lo si getta fuori immediatamente, tutto riesce bene, la vita procede rettamente. Cerchiamo allora di essere sempre brutalmente sinceri senza essere imprudenti o maleducati. Il Signore concede in abbondanza la grazia dell'umiltà a coloro che ricevono con visione soprannaturale i consigli della direzione spirituale e che vedono in questo aiuto la voce dello Spirito Santo. Soltanto una effettiva docilità di cuore e di mente rende possibile il progresso nel cammino della santità, perché il Paraclito, con le sue ispirazioni e attraverso i consigli di chi ci assiste, dà tono soprannaturale ai nostri pensieri, ai nostri desideri e alle nostre opere. È Lui che ci spinge ad aderire alla dottrina di Cristo e ad assimilarla in tutta la sua profondità. È Lui che ci illumina per farci prendere coscienza della nostra vocazione personale e ci sostiene per farci realizzare tutto ciò che Dio si attende da noi.